Attenzione, signor Bacchisio! Attenzione, signor Bacchisio! Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto, cambio! Avanti! E chi è che parla qua? Avanti! Si senti? Avanti, avanti, chi è? Come lo fai quello? Lo fai col culo, lo fai? Dalla sua dipendi che si gode, ho capo di gatto! E che so che lo segnale per i davanti d'ottimi? Ah, ti credi che non lo so, Marco di Gardena. Attenzione 10, c'è qualcuno in ascolto K. No, poche parole. anche sul tetto, ma un pochettino di problema, poi l'ho dovuto trasferire e via. Praticamente ci ho rimesso quello vecchio, perché stava girando le balle. Casino. Ah, mi sono capitato a vanno. C'era un po' freddo. Cioè, si muove da dentro, si muove da più, hai sentito? Sì, l'ho sentito. Ah, adesso l'ha avvitato bene e non ha più problemi. Però c'è una corsa troppo lunga, cioè, capito, non è una corsa corta, è troppo lunga. Infatti, me la sono accorto pure io. L'hai preso qualcuno? Di che cosa? Di PL. L'ho preso? Ho detto, l'hai comprato qualche PL, la Fusano? No, manco uno. Ma è arrivato tutto uno, ti ricordi? E capo, quelli andavano bene, ma questo ultimo che mi ha dato, ma la cosa troppo lunga va. Vabbè, finché funziona. Potrebbe funzionare. Sta scadendo anche di meno. Stanco sì, Luca. Ma avete quelli nuovi che sono usciti, i nuovi connettori? No. Sono particolari, sono. Ma dovrebbe andare bene, secondo me. E quali sono, foto ne hai? Su internet io ho visti quelli Aizetta, che cazzo si chiamano? Sono un nome un po' strano, c'hanno anche il capo, cioè un nome un po' strano. Capo Ultraflex, l'hai sentito illuminare? Ah, detto, aspetta, metto quando gli occhiali un attimo. Capo. Dice che potrà andare bene anche, dice più che altro per il VHF. Però cosa? Come si dice? Potrebbe andare bene anche per l'antenna CB. Come forti erano. Ma, più che altro per il VHF, cioè. Però posso andare bene anche per l'antenna CB. Sta mandartelo. Cazzo, ma come ti cazzo? Sono dei connettori particolari, sono. Ah, ho capito. Vabbè, hai dato un po' che era una cosa nuova. Sì, ma cavolo, sono bellini, cioè. Possono andare bene. Sono i connettori nuovi. Andare bene, sì, e se non arriva più, ma è sì. Ci stringono anche con la chiave questi così qua. Addirittura con la chiave? Sì, ya. Cazzo, sono micidiali, sono. Però io qua non ne ho mai visto, la verità. E chi riconosce oltre a te? Non so chi riconosce, forse Luca. Sì, gozzane, non lo so, costeranno un po', costeranno. Perché sono dei buoni connettori, me. Ce l'avevo in quelli buoni buoni, la buona tittore, la buona rima tittore Lamberte. Tu in porcellana, e che ci danno in vattene? Erano quelli buoni, sì. Forse faceva la porcellana. Chi ce ne buoni, sì. Ma li fanno anche in Italia questi così qua, ho visto, Ci vuole questo tipo di capo, ci vuole. Mi ti ho mandato il coso, ti ho mandato. Stai, lo prendo. Si usano in VHF, si usano, però si possono utilizzare anche in anche in 27, penso, non è un problema. Ma tu sei un connettori N. Non si può idratare in 27, dici. Ma assolutamente no, quelli sono per le antenne VU. Lo so, sono per quel tipo di antenne, ma io pensavo che si potevano utilizzare, perché io ho visto un filmato con una Gimaster, cazzo, che ci hanno messo quelli lì. Bene, sì. Ok, Google. Come si dice, cavallo in sardo. base al sito Pipius. Per tali ragioni, concludono i linguisti, tutti devono sapere, ben oltre i confini dell'isola, che in Sardegna alla parola italiana cavallo si risponde con quella sarda ti codiri. Ha detto ti codi. Ti coditi. Ah, che cazzo l'hai preso? Ce l'hai l'assistente Google tu? Sì. Devi dire ok Google e poi gli chiedi. E poi gli chiedi cosa. Come si dice cavallo in sardo? E di ti codi. Cazzo di te si vuole un coprifuoco, beh. Ah, no, ramma, ragazza, vuole un coprifuoco. E lui? Un attimo. Bianco un attimino.